altro tipo di microfono, ma non lo fa. Capito? Allora, dopo che è andato a vedere il porco, si è scappato la pentola. Ah, parogero, che parogero. E beh, di giro. Ti ascoltavano loro e non ti facevano entrare. quarame qua c'è sempre, più basso scegli meno quarame hai, poi lì la piana di Ottava, i punti, quella zona lì è favolosa perché non c'è, c'è sempre poco quarame, ma qua in alto da noi è un casino, soprattutto la sera sul tardi, c'è sempre, sempre quarame, capito? È positivo, là, e anche cosa tanto c'è da fare, io un po', adesso in questo momento non ce n'è, è zero completamente, dico la verità, no, prima c'era un po' di guerre, ma adesso no, guerre perché c'era un po' di propagazione, sentiva un po' di stranieri in lontananza e forse anche per quello, capito, però adesso no, adesso questo non è sento proprio. Vabbè, anche a Porto c'era un po' di guerre, ma c'è, ma è usato... dalla cosa, dal cambio di temperatura, lì c'è il mare, è diverso, ok, avanti, fa che, il porco mio alle 6:30, 7:20 è già andato, l'ho già sforbiciato, adesso le faccio consumare l'acqua e poi lo prendiamo, cappa. No, andiamo bene, andiamo bene. No, io della verità non lo sentivo per niente. Eppure il QRM non è della verità, però non lo sentivo, non lo sentivo per niente. Neanche qua arriva, neanche qua arriva, niente, niente. Infatti ha detto Gigino che era con una magnetica sul camper e non lo sentivo la verità. No, io sentivo da prima che era prego, prego, prego, io stavo facendo cosa, c'era Sandro e tu stavate parlando e lui chiedeva prego, prego, e tu non vado ad entrare, perché non lo ascoltavate neanche. Infatti non abbiamo risposto perché non lo sentivamo, Gigi, se no lì ci mancherebbe altro non vado ad entrare. Thank you. portato assieme. La stessa cosa potrebbe essere successa. una misura dell'osso. Nel canale 20 e canale 40 la stessa misura dell'osso, mentre invece adesso c'è il contrario, giusto? Esatto. Allora, diciamo che io adesso su questo canale per dire su per dire su 40 e così via, c'è un numero di stazionari. Ecco, lo sono leggerino perché la realtà è quella. È così. Conosco perfettamente il problema. Ora, quando tu hai due minuti o hai necessità di dare una voce, bisogna portare quella misura a 45 mm. Capito? E fa sì che quell'antenna lavori a centrobanda 1 e 1, dal centrobanda che noi chiamiamo il canale 20, dal canale 1 a 1 e 1, e dal 20 a 40 a 1 e 1. Se non dovrebbe bastare 45 mm si porta a 46. L'importante è che sappiamo tutti che le misure che ci danno per il montaggio delle antenne non sono ufficiali ma sono approssimative. Loro ti danno una partenza di misura che è quella. Poi sta a te lavorare davanti a me con lo strumento, capito? Che ti mandano le notizie, tu prendi quanto? Faccio il televisore. Cazzo. Notizie va. Come posso dire che non abbia capito di nessuno? Come dice, abbassa la voce, va qua, ma io sto parlando normalmente. Come posso chiudere nella mia stanza? Deve girare un po' l'aria, no? E non c'è neanche io, c'è la zitta, io c'è queste cose. Va bene, questo è il tutto, caro Sandro. Quindi bisogna andare a rispettare quello che è la partenza della misurazione dell'antenna che è approssimativa e poi con lo strumento cercare di o salire o scendere con la misurazione. In questo caso tu devi salire, quindi bisogna cambiare quella misura da 43, minimo portarla a 45 mm, minimo. Antenna lavora 1 e 1 di stazionarie o qui. Il microfono con Luigi Vulcano, Radio Papa, vai, cambio. Dove ti ho chiamato Radio Papa, lascia le tre di più. Ti faceva accompagnare tuo fratello. È arrivata domenica. adesso ho quasi finito. Così domani ce le metto tutto a posto, domani mattina mi rientro dal lavoro. Ma cappa cappa. Che la parola. Ma ti volevo chiedere, Mauro. Dimmi. Ma l'apparato ce l'hai sempre sulla barra, sì. Quale? Ma metto ce l'avevi sulla barra, avevo le auguri. Su quale metto però? Un metto tuo dove lavori. Ma lo stavo mettendo con la cosa, con la l'antenna calamita. Ah, quella con la base magnetica. Sì, c'ho l'antenna con la calamita, no, sto usando quello. Ho capito la base magnetica. La è uguale a quella che c'ho in macchina. Precisa, che è base magnetica. Tanto ho visto che funziona bene. Sì, e poi ci siamo già parlati, ti ricordo la mattina. Sì, sì. No, devo sistemare il filo perché stavo guardando e c'è la calza e l'ho aperta un po' troppo, adesso lo devo risaldare e rifarlo bene. Positivo, sì, ricordo già un attimo a farlo. Infatti mi sono stato un appento e mi ero botto, così almeno sistemato. E domani me lo rimetto in camion. Positivo, positivo. Vediamo se è entrato Claudio, questo corpo. Abbiamo poi chiamiamo questo morsicatore, la cipicchia. Siamo letto. È un morsicato ma pulito, non l'ho fatto a pezzi così. È già quasi pronto, altri 5 minuti, 10 minuti, sto facendo uscire l'acqua quello con disco. Gappa. Avanti, Mauretto, vai Claudio. Ciao Claudio, mi hai sentito? Via. Senta, tu non se ne fuggi, mi. No, ormai è morto. Ormai è morto, capito? Ormai è andato. Non può più scappare. È tutto sotto controllo. Ok. Perché, Tom? E poi perché? E come ti chiedo di dire qua, su molto è morto coccodile e coccolà, e come lo canta tu se ne coccodile e coccolà. Che sai dai qui, lascio fare il favore. Scopre queste ricette, sono un buon. Una volta l'ha fatta una voglia con le favorette. E tutta la fa. La buona un po' con le favorette. Lascio fare un po' la mezza cucinare. Lo metti con tutto dentro, lo metti in una bella teglia, quelle pirofile, aglio prezzemolo, peperoncino, le favettine fresche, e troppo a campare saluti, a rodrovio, pizza di informata. E via, è buono. E me li dà il sapore delle fave, delle favette, più il sapore del porco, è una cosa buona. È una cosa molto molto buona, cappa di rogero. Io vabbè, non lo so, ma io cucina. No, pesce ne sto prendendo spesso. Solo che a pranzo ho fatto, c'è un pezzettino di agnello in frigo per farlo prima e tocca buttarcelo. Poi c'è un mezzo pacchetto che lo faccio con la squadra venerdì. Perché ne abbiamo un altro bel pezzo di cinghiale, l'altro di vicepresidente. Che è Gigi Moro, carrozziere, non c'è per la niente. Ma cosa vogliamo guardare? Io Matteo c'ho un po' il porcetto e io c'ho un po' il cinghiale, allora facciamo tutto il cinghiale e il porcetto. Portate arrosto e via. E poi vediamo qualche altra cosetta. Ma dovete possiamo fare il cosciugetto con la. Cioè la pasta con il cinghiale. Va bene. E allora Mauro, non sei uscito oggi, anche tu a riposo come me, aspettiamo sabato e domenica per riposarci. No, mi stavo tingendo quel pezzo là che ho sistemato, capito? E mi ho risucchiato quella sotto là dove c'era la scatola, dove c'era presa, mi ho risucchiato anche quello perché ci ho passato tutto il filo lì dentro e basta, così almeno domani mattina sistemo tutto e rimetto tutto in ordine. Però io devo canalizzare ancora i cavi perché ho fatto la L, quindi ho spostato la scrivania, ho allungato cavi e balle varie. E allora. E allora niente, c'è detto tutto. di niente, allora devo canalizzare, però sinceramente parlando una giugana, gli ho rotto l'atto, gli ho messi dietro la scrivania, poi domani con calma mi rifaccio, invece con tutta la io ci prendi, o non faccio niente qua, oppure sto sempre faccendo. Adesso domani mattina faccio anche il falegname, invece mi metto una colazione questo piano. Eravamo già rimasti d'accordo, 1,50 x 60 m, che praticamente è l'angolo, la L dall'altra parte di quello che c'è attaccato al muro. Antonio ce l'ha visto. Così metto tutto bene a posto, perché ancora non è definitivo quel lavoro, è abbastanza in ordine, ma non è definitivo. Mi serve quel piano lì, se no casino. Prova a piatto. Ci sarà quel piano tra di tutta voglia, bellissimo, diventa una cosa molto uniforme, bella, è bella adesso, figuriamoci dopo, sarà ancora più bello. Cosa le fai o non le fai? Io ho avuto sempre, perché pensavo ne avremmo, capì, quindi scrivania copiate, ho ottenuto sempre quasi lo stesso colore, però si vedevano che le scrivanie sono diverse, non è bianca a me. E quindi già ho visto, ho fatto fare un piano unico, grandissimo, molto grande, da falegname. E poi ormai Matteo mi faceva la doppetta, solo che sta finendo il lavoro, non so se l'ha finito, un lavoro molto grosso, mi ha detto. Quindi appena aveva due minuti lo metteva in lavorazione, perché c'era a copiare, sono delle tavole grosse, che vanno accoppiate, lasciate asciugare, poi stuccate, rigate, dato fondo, tutto un altro, poi ci va tutta la bordatura, e praticamente esce una scrivania, capito, una base, ma è molto bella, un tavolo praticamente. Tutto va accoppiato con le zanche là sotto, allora la troppezza, poi messi gli altri due piedi all'altra parte uguale a questi, capito? Vabbè, però si è legato il falegname, se no non è ancora. Non è ancora finito quel lavoro, giustamente. Questa è una stronzata e costa zero, per dire X. Quello era un lavoro grosso, lo faceva guadagnare tanto, perciò bisogna. Buono! Tu non ci mangi di crudo, vuoi? Come ti non ci piace? No! Scusa, non è fatto bene, magari! Non posso produce mai lì! Andare. E vuol dire che è fatto bene, dai! Vuol dire che se la tua 50 sta dicendo che è buono, vuol dire che è buono. No, perché inizialmente non stavo aprendo cottura, però adesso mi sento meno un quarto, com'è? Non ancora. Un altro po'. Va bene. Dopo vado a controllarlo di nuovo. E ritorniamo, anche lì da te è una cosa bellina, Mauro. C'hai quella scrivania con quelli piani, vedi, quelli sono molto interessanti. Li ho sempre. Mi sono sempre piaciuti quei ripiani lì. E ci metti lì dentro due o tre baracchini, da una parte l'alimentatore rimane ordinato, c'è tutta la base di sotto per mettere il microfono da tavolo. Va bene. Lo so, infatti questo va bene, avevo ci metteva anche la roba, ma visto che ho preso quell'armadio, mi butto tutto lì dentro e qua me lo tengo per quello. Io me l'avevo già. Mauro, Anto, si abbina bene con l'RMS200 con quel microfono, va molto bene. Eia, esce perfetto, bellissimo. Cosa hai un microfono in mano? Lo sento lì, io ho un cassetto pieno di microfono da palmo. Cassetto pieno. Un calcio pieno. Però non riesco mai a usare. A volte i calcio c'è il microfono male per dire con 4,40, 140. Oh, è talmente la comodità di usare il microfono di tavola che è un casino. No, è proprio vero. Non termini il microfono in mano. Prendi un attimino che ci metto le frappe a cucinare, se no si cucina il polipo e la frappa rimane col pelo. Io faccio un attimino di bianco, due minuti e sto riprendendo subito. Ok. Io ti chiamo subito, due minuti che sto seguendo il Fornelli. E tornando, già siamo qua comunque, non chiudere, due minuti già arriva Antonio. No, fai, intanto io mi saldo mezzo PL, dai. Va bene? Beh, tutti molti siete. primo che deve controllare e mettere a cucinare le fave. Tu mi sembra una bicicletta di un boy. Cosa? Tu mi sa che la bicicletta di un boy. Parola della bicicletta, ma dentro il muffo, quello il cugino di una parte. Non sei un boy tu. Tu si m'ha detto. Parti andava da, si chiama Muffo, andava. Via. Fuori noi il fuoco, abbiamo fatto la guerra, e ci avete i rumori, e ha trovato un quattro di... Non faccio vedere, sta cadendo la riga, ci si occupa niente. Un sacco di cose, mi sa quella, niente. Sì, sono acceso, no, bisogna vedere. Tutto il resto. Ma tu c'hai il telefono col modem? C'ho la... il telefono, non ci ho più... C'ho il telefono col modem. E i fiscali mi ha detto che c'hai, no? Il telefono fisso, cioè, sì. Separatamente, non è collegato al modem. Ma allora c'è un impianto nuovo. Non è un impianto nuovo. Allora, l'ha presa dall'entrata della porta. Ho preso un filo lungo 20 metri, me lo so provato in camera. E ci ho collegato il modem. Poi da lì, dalla presa sempre, ho messo un'altra presa, capito? Sono doppie prese. E si è placato il telefono. Ho capito, no, perché il vecchio coso che c'avevo i discari era attaccato al modem dei discari del telefono, perché sennò non funzionava. Cazzo, ma c'è una fa? Ma c'è linea, non è il sacco di gol della rete, ma c'è la linea, sì. Invece adesso non ce n'è più bisogno, e questo lo vuoi meno esso. Cioè, vabbè, c'è il filtro perché cioè una linea lo usa per il modem e una linea lo usa per il telefono. Aspetta, non c'è linea. Perché c'è acceso via ADSL. No, già c'è. Ma pagare solo 20 euro, boh, ancora non è scaduta neanche. Ma a me me la... come si chiama? A me me la... me l'hanno dato così. Ho visto tutta la bene. Almeno ho fatto sempre il modem acceso. Ma solamente manca paghi tu il bollettino. Allora adesso abbiamo fatto il coso del Redi perché c'era un risparmio, quello che se pagavo 50 euro in meno, se pagavo io direttamente con il Redi bancario. Se paghi 50 euro in meno? Non mi ricordo, cioè, se risparmiavo 50 euro se lo facevo con il Redi. Cioè praticamente sono scalato la banca. Loro gli fanno la ricchezza del pagamento alla banca e glielo fanno. E poi sono che scalavano direttamente dalla banca. E c'è la richiesta, no, del pagamento. Via. Io stavo peggiorando, se qualcuno sta tentando di collegarsi, ma rimane un po' bunari. Collegarsi cosa? Al modem tuo? Cosa c'è la password? È proprio protetto. E allora stanno provando a lanciarsi con la wireless. Stanno pegliando infatti. No, io lo stesso ci ho messo la password. Quindi se non metti la password hai perso. Ma mi è poco difficile. E io lo stesso ho messo la password, non c'entra manco per sogno. Adesso la sua originale è una cabuduio. No, la testa mia. Anche io ci ho messo una... così. Sono furbi. Vabbè, se mi devo traccare la password. Vabbè, già ci sono i programmi per che la cattura entrare lo stesso. No, se vogliono, neanche se ne accorgi tu se sono dentro. No, che se io non c'ho il computer, vabbè, io intanto il modem lo accendo solo quando uso il computer, se no se ne metto, non me ne faccio niente di tenerlo acceso. Ma come va sempre acceso? Ma protetto? No, io il modem di Tiscali lo accendo, a parte che c'è un modem in mio, niente, un Tiscali, perché non me ne hanno mandato, perché intanto non ce n'era bisogno, ce l'avevo io già il modem. Ecco, chi è avanti? Chi vuole entrare avanti? C'è qualcuno sotto di te? come la pecora, Dove dici la pecora? E la pecora ti metto, come la pecora. Vedi se ce la fai a mettermi come la pecora. E ce la fa, ce la porta questo periodo, ui. E ti capo qua che trattore. Non esagerare adesso, di dire barzellette. Vabbè, quando vuoi dimmelo. Ma scommettiamo. Sai, scommettiamo, soldi ne hai. Vuole accendere l'acqua col fuoco. Tu vuoi scommettere come ti capo il trattore? Vuoi scommettere? Fai mettere i soldi a disposizione se ne hai. Di minchia mi sono spontato, ho capito, non si può più modulare adesso. Ma che stai dicendo? Stavo mettendo la portante. Staccate il culo la portante. Vabbè, non devo avere niente da fare, peggio per lui. Tanto sappiamo già chi è, perciò. Passa lì a rompere le balle, chi mi partiamo sta cercando, chi gli rompe le palle a lui. Gli rompo le palle, non con lui, con nome, io non gli ho fatto niente, perciò non lo so muovere lui, non si è permesso di mettere la portante, questa gente, va, e là ce lo stanno afferrando, sì signore, la marijuana non è piantata ancora, cosa? Marijuana non è piantata ancora, è la seminata l'altro giorno, non è pronta a tagliare, chiamami. Va bene, però portati la pancetta. La pancetta? Dove la vuoi tagliare? Non ti preoccupare, basta che tu mi chiami bene, così che vuoi tagliarla. Sto dappertutto, anche nella zona del Molese, lì. L'hanno seminata e trovata. Lo so. Non si può, non si può. A quest'ora dovrà essere sto quando si minaccia il terreno, invece non l'ha mai fatto. Non ci ha lasciato arare, molta gente sta arando e seminando ancora. Ma poi non si è più sentito. Che io non ho più sentito, ma più. L'ho sentito io però. Non sono da girare che c'è roba nel fuoco. Non so se rientra Antonio, con chi fare il parabolo. Ma Salvatore è in ballo. Salvatore chi è? Non è piccola. Sono solo due e basta. Appunto lo sto campo, lo so, ma qua fa un culo. Salvatore Baragli? No, pensavo c'era Salvatore. Va bene, buonasera a todos, vai Mauro. Buonasera Baragricola, ben sentito, ascolta io adesso mi provo questa tele in macchina, due secondi. Va bene, anche tu hai bruciato l'antenna. Ho sistemato il PL, l'ho fatto bene. Ho capito quel problema che c'avevi, va bene. Magnetica che ci ho dato, adesso me la metto nella prova a tagliarla, vediamo come va. Ma la chiamo, ne avevi nel camion, Mauro? Capito Luca, ripeti. Ho detto, di Baracchino non ne avevi ieri in camion? No, sabato non ne ho messo, lo metto lunedì. Infatti no, non ti ho sentito, ma c'è un Baracchino alle 9 mi sembra. Domani mandano in attacco. Perché non mi pesa il zincolo? Chi ti sta dicendo di alzare il 5? Quando ti alzi che l'accendi mi chiami. Tanto io vado sul 5, dopodiché lei mette ci spostiamo. Quindi stamattina la potevo fare, perché mi sono svegliato alle 5 meno 10, non so più riuscire a dormire. A parte mi sono addormentato troppo presto. Stamattina la potevo fare, vedi? Poi gli altri giorni sono addormentato, ho dato la dolore. Dormendo male. Sto dormendo male. Se domani mattina mi sveglio verso le 5 ti chiamo, 5 e mezza. E intanto io lo metto su 5, lo metto, la mattina. Vabbè, ma lo facevo, vabbè. È per i periodi, dai, non... Ne ho parlato un paio di volte. Ma non più di tanto, però. Io ho capito, aspetta, lasciami scendere giù. Che mi attacco questa terra a vedere, dai. Vai, va. Cadio, mi sta salvando, sta piantando la marijuana. Guarda, è sparito. Salvato! Eia! Io sono da tagliare questa marijuana. Taglia la pecora la marijuana. La pecora se la mangia. Eia! Cazzo, te che la pecora sono volte. Sono volte. No, se si mangia la marijuana... Ti vendi la pecora con volte. Che fa bene la pecora, la pecora li fa bene, le dà latte. Ah, così è. Ecco, ma anche quello che fuma la marijuana c'è tutti i bianchi. Ah, io la sai, voglio la faccia da latte. E tu la faccia, che non l'hai mai fatto, che? Che non l'hai mai fatto? Facciamo, mentre la maschera a 6, lo facciamo così è già pronto. che cosa? L'avevo già tolto il coso, l'avevo già tolto il lato. L'avevo già tolto io quello. Sì, sì, sì. No, lì bisogna metterci il bullone, quello leggermente più grande, va? Quello lì sei certo. Perché uno è più largo il buco, allora? Perché già non so se l'altro passa, quello normale. Io arrivo da solo, lì l'unica tagliare di mettere i bulloni nuovi, il cambio. Non capisco perché tutti questi casini, quando uno portato su a casa e può spendere, perché comportarsi così e mancare di fiducia alla propria moglie e creare problemi in famiglia. Io questo non l'ho mai fatto. Ho sempre detto, giustamente, a mia moglie, perché siamo in due. Mi devo comprare questo e me l'ho comprato. Non mi ha mai detto no. Mi ha sempre detto stare attento a non spendere troppo e a non uscire fuori di casa. Questo me l'ha sempre detto, ma grazie a Dio ci sono sempre riuscito e la mia passione è sempre andata avanti e grazie a Dio non mi manca nulla. Tutto qua. Va bene. Allora, sabato, Gabbiani, ce ne di dove parti tu, Gabbiani. Vai, ce ne sono, adesso vado a dormire. Ciao, Rosetta, buona saperci fare. Lo so, lo so. Bisogna saperci fare, veramente. Non fare mai mancare niente a casa e soprattutto non trascurare moglie e figli, perché altrimenti diventa sempre un grande problema. Fatto lasciare la fame che ho mai. Mi sta entrando un'aria sotto la cugliuppa di come allucinanti. Occhio che la sera fredda è fresca, no? Si sente il maledetto. Mi ha detto che la temperatura passava un po'. Esce un po', vale un po', un po', un po', un po', un po'. Aspetta. Ok. Oh. Ok, sembra che farà bene, ragazzi. Dove sta arrivando bene, Luca? Santiago 8. Da me. Allora. Ci sale andare avanti, vediamo un po' come ti ascolta Baragli, guarda se ti avvicini. No, Baragli, lo senti a Mauro? Lascio, lo sento e adesso vado a mettere attaccare l'altra fissa, vedere così vediamo se c'è qualche cambiamento di segnale, dai Luca. Sì, 7-9 qua, modulato 9. Sì, calata 9,20, 9,23 esatto, modulato, 9,20. se c'è. Ha voglia. E questo qua più o meno da quasi 10 watt, dai. Quindi fa la proporzione da 9,23 modulato. Quasi 10 watt a 50 watt e vai da 9,23 a 9,35 modulato, quasi 9,33. Quindi c'è la differenza. Questa radio sono così, cioè quando chiedi controlla uno da un baracchino, se lo chiedo a me non ti rimbocci manco l'acqua la gabbia 23, perché mi ha talmente grandemente. Loro segnala che sale, qualcuno va a fondo scala, tipo vabbè, Falchetto, tu, altri sono, rimangono poco più di 9, quindi come faccio a fare una proporzione? Mentre col Swatch è abbastanza grande, e i segnali sono si vedono. Con l'altro si vedono, ma i buchi se non si vedono accidenti. Però, ripeto, è sempre approssimativo lo smitter del baracchino, non è mai preciso come questi HF, capito? Quindi, non è che senza offesa per nessuno, ma è così, la realtà è quella, vedi anche Luigi. Luigi a me mi arriva con la terra e mi arriva a 9,30 e lui a me 9,30 non me lo dà. Invece in proporzione dovrebbe darmi quasi lo stesso segnale. Non me lo dà perché il suo smitter è tarato in un'altra maniera, quindi non può mai dare il segnale che do io. Thank you. ascoltando, forse c'è qualcuno che stanno cercando. Luigi? Charlie, Charlie. Omicidio, non lo so, non ricordo. Omicidio volontario. l'ultima, una buona cosa del genere, un omicidio, mamma, sta lì tu. 200, ecco qua, e 5. Allora. Così. Ecco. Vabbè, sono anche, non mi ricordo, omicidio, intenzionale, una cosa del genere. Eia. Quanti fanno, quanti come hanno ucciso la tipa, è beccato un pugno a faccia. Sì, quello per intenzionale. Ma lei aveva l'intenzione di ucciderlo, gli ha dato un pugno e purtroppo è andata così. Quello brutto è l'omicidio volontario di Sergio Duroli. Non l'ha fatto, mica l'ha fatto per ammazzarla. Ma anche detto, lascia un brocco già faccia, non credi, Ma che lei è caduta e ha sbattuto la testa, è entrata subito in coma. È caduta appeso morto, si è anche visto la fotografia. Ha sbattuto la testa, quindi è entrata in coma. E giustamente, una volta che entra in coma così, non è fatto di che ne ci vivo, Io lo so. E vabbè. Vuol dire che andare così, ma lui anche di baffo la raccia. Vabbè, la parola di ma come un po' di galera. Tanto, ma dice che adesso è agli arresti domiciliari. Beh, intanto agli arresti domiciliari perché devono verificare e devono sicuramente dovranno preparare gli atti del processo. E poi si andrà in appello e si vedrà qual è la condanna che prende. Cessurati così, non è un ragazzo schierato, non è, capito, un letto così, può succedere che bisogna vedere il pubblico ministero cosa decide, è chiaro che c'è un morto, quindi la condanna gliela daranno, ma sicuramente le daranno gli arresti domiciliari. Bisogna vedere sempre da... Ecco, bisogna vedere sempre come trovano il giudice. Soprattutto vuole fare girate, ti secca, io qua entro, via le balle, quanto, 20 anni, vai, via, adesso mi guardi 20 anni. Ma è giusto che si rifaccia se il pubblico ministero decide di dare 20 anni, c'è un omicidio, per quindi non voluto comunque, quello che ha fatto ad una donna è una cosa gravissima, non va bene, bisogna prima di azionare le mani azionare il cervello, perché con le mani si può fare danno, quando ti sembra una cosa più che normale, una difesa, uno schiaffo, uno secondo come gli avrai, io ho visto uno quando era a Cagliari, ma così, una lite banale come può succedere a tutti, stava succedendo a me a Città Mercato 2 settimane fa, quindi. Gli ha dato lo schiaffo, mano piena, e l'ha preso all'orecchio, l'ha fatto sordo, ha iniziato a fare sangue all'orecchio, sordo, gli ha crepato il timpano. Lo so, qua. È un casino, corrotto questo tasto. Corrotto questo tasto, qua. Ma questo tasto, questo gommino. Ti faccio i figomini, Gio. Che cosa? Ti arra, di un game food, quei gommini tipo che fanno la piedini. Ah, Bogandini, cosa ne fai? Ma Bogandini, a parte fatemi sembra qualcuno ci voglia di quei gommini. Non c'è problema. Beh, sto cercando, vabbè. Ah, vabbè, perché le guardi, là? Sono tutti quelli di atta. Ho detto... Infatti il gioco perché non ci va a farlo bene, no, non tira. Vabbè, da qua. Nain, tu da. Avanti, riprendi anche tu. No, ma io ho sentito anche che prima di quel fattaccio lì questo tipo era un tipo un po' violento e stradito. E avevo già picchiato un altro. Allora, ma cos'è che quello sconta uno e l'altro, eh? Non so, faranno pagare una così non va bene, ho avuto una reazione molto da delinquente proprio. Sì, poteva anche evitare, anche se quella là stava provocando, però. Sì, si sono sputtati a vicenda, poi vista l'ultimo sputo, quello è partito dal cazzotto e l'ha presa in piedi. Perché stava dicendo la madre che aveva paura che questa ci aveva borsetto qualcosa e niente, le la tirava la faccia. Vabbò, ma quando puoi evitare di dire spalle nel bagno da cavolo stai lì a mettere mano addosso a una donna, cazzo. Adesso se invece il vino non è fresco e chissà che adesso la condanna cosa riesce. Quello che riesce si prende, quello è poco ma sicuro. Purtroppo c'è un omicidio di mezzo, ma non è facile, Paolo, non è facile. Sì, non è facile, no. Bravo. E lui, Giulia. Ma, e vuoi dire, sai che io adesso alzo, faccio la carichetta, non c'è veloce, c'è anche un po' di fame. E riprendo dopo. Io, ci sentiamo dopo, dai. Fabini. A dopo che mi viene la mano. Sì, buona carica. Ci sentiamo dopo, dai. La fame ti è venendo, la fame. Sì, Fabini, mi faccio fame. Adesso faccio una cosa veloce. Magno, adesso non torno in radio. Quello anch'io lo facevo così, ma non era come te lo mangi come il gusto che c'ha adesso, non mi metto un pescatore, ma tu la metto la pressione anche la metto la pressione veramente anni fa, si mangiava così. E è molto buono perché praticamente la metto la pressione si lo cucina prima, però le toglie tutto il suo, la sua acqua, la scarica in vapore e le toglie tutto il suo sapore. Mentre invece lui rimane sempre a bagno con la sua acqua, cucinando piano piano, e alla fine gli va a far consumare leggermente quell'acqua che diventa un sughettino, perché quando tu lo fai soffritto c'è un pochino di acqua sua, le metti l'olio, io le metto anche sempre un cucchiaio d'aceto per togliere quel sapore che ha, e rimane quel sughetto molto, molto buono, invece col vapore si ti bocca tutto. E vabbè, quello che è vero che qualche cosa sta per sempre. Abbiamo di combo quelli tipo Fiorino. sono quasi tutte belle. Diciamo quasi, perché è la parola giusta, però sono... non ce ne sono più macchine brutte, capito, Salotto? Io ho capito già, ma lei sulla toccatina non fece dire di niente, hai visto? Lei prende le macchine e le facevano una volta, le toccava col paraurti e non gli facevano niente, adesso toccano le macchine col paraurti e partono ai 600 euro, ai 1000 euro. Io lo so. È così, Salotto, è così. È così perché... Lo so, purtroppo le macchine che facevano un tempo non ci sono più, sono tutte macchinette da niente, e quindi bisogna stare attenti perché quando prendi i colpi è un casino. Yeah. tirata, il camioncino se l'ha portata via. E non mi ha detto niente perché ci sono ritornato a ritirare il foglio complimentare della, della rotomazione, e dopo volevo vedere il foglio delle, quello dove c'è le, il coso delle, il singolo dell'acido, non mi ricordo come cavolo si chiama, quel foglio lì, e non c'era, allora ce l'hanno voglia, me l'ho lasciato, dopo non ci sono più ritornato là. Dicevo, quello non mi dice proprio niente, guarda, è un pezzo di merda che non viene bene a dirlo, sembra che tutto gli è dovuto, capito, che è tutta roba sua, è un animale, dicevo, ho salvato, è un animale, guarda, non mi dice proprio niente. Capito, capito, infatti io non credo che mi qualche pezzo di una di macchina. Girare la macchina non vuole efficiente, ci vogliono sempre pezzi nuovi, sempre all'avanguardia, perché altrimenti è un casino, poi se con i pezzi che metti non va bene nel modo più assoluto. Thank you. gentilezza. Ma molto probabilmente la vuole lasciare mia figlia, capito? Ci sono fatta a due posti. Anche ieri erano tutti in greffa e lei mi ha dovuto scegliere una sola. E quindi sai, a volte là bisogna prendere più macchine per uscire. E quindi molto probabilmente la cambierà a fine anno, a gennaio là, nell'anno nuovo. Facciamo la trovata, non spendiamo soldi, lasciala così e se la versa si vuole prendere la Citroen. O la Citroen o la Citroen o la modello nuovo, oppure quella della Toyota, la Ego, quella nuova che è uscita. Come on. Sicilia non ha niente a che fare né con Marco e neanche con Giampiero, quello di via Capalocchino. Sono due cose completamente diverse, perché Paolo Pubblico è più antennista, sa fare anche impianti nelle macchine, ma non a livello di Marco e di Giampiero. Marco e Giampiero fanno solo esclusivamente quello, e soprattutto Giampiero ha tutte le concessionarie che portano le macchine per fare gli impianti, ma macchine, no, macchine grosse, macchine che se sbagli paghi, capito? A Marco, quello è giusto là quando aveva la 500, il modello vecchio, non so se l'ha conosciuto, io l'ho conosciuta con quella macchina lì, l'ho conosciuto, no, ho avuto quella, la 500 nera, con i vetri azzurri. Adesso c'è la Volvo, dopo c'è la macchina della moglie là. E no, comunque io ho sentito da Marco che ha aggiustato una macchina, era 4 anni in ferma, aveva un problema, l'hanno portata alle elettrauti, gente brava, non ci sono riusciti, la questo qua l'ha portata lui e l'ha messa in moto nel momento. Bravo, oggi è stato molto bravo, sì, l'ho conosciuto troppo poco fa. Io ho conosciuto la 500, questa 600 invece era la 500 vecchia. E quando l'ha comprata era sempre accappottabile, è andata a Torino, ha speso una barca di soldi, alla fine che si è fatto fare la accappottabile. E io la conosco, Marco è mezzo pazzo, le piacciono le macchine un po' strane. Avanti il break, che... Sì, ma a noi piacciono fare questi esperimenti, queste cose così, sabato. Le ha collegato il relè qua nel trattore, perché mi bruciava sempre il fusibile e la casa dove ha fatto il trattore non hanno messo il relè, hanno preso la corrente dalla fusiliera e l'hanno attaccata lì agli interruttori dei fari. E quando scalda il faro o brucia il filo o brucia la valvolina, e più che altro bruciava la valvolina. E lei, da quando gli ha fatto questo impianto, sta andando bene là le luci dei fari. Me l'ha fatto lui, adesso l'ho visto come l'ha fatto, me lo faccio anche io, non è nessuno è nato imparato. Nessuno è nato imparato, ha detto bene Sabato. Non ho vergogna a dirlo, si impara in campo, in combattimento si impara. E poi automaticamente si insegna agli altri a fare le cose. Nessuno è nato imparato, ha detto bene. E tu dottore, ma non la usa cosa no? Quale? Terrario, la tua luta. Certo, conviene. e continuare a lottare, sabato, continuare a lottare per la sopravvivenza, assinuo molto giro, oh via, ci mangiano il cervello, ce ne mangiano, capito? Ciao autore, buonasera, ben sentito. Sono che si può ascoltare Massi in radio. cerca di avvicinarti tu al microfono magari. Ma me stai dicendo? Già, saluto ai invece. Come fa il Saverita? Yeah. a quello che mangi, non mi fa buona attenta ai suoi mani. Prendi l'esempio dei funghi, io non mando un arco per i funghi, solo quelli bianchi, non so come si chiamano. Però ci ho mangiato anche l'antuna rossa, ma non mi attira più tanto. Cucina per il verde ancora di Marco, però non piace. Frattaglioli. Corpignon, bravo, se quelli lì. Infatti voglio olive, quelle le mangio volentieri. Però l'antuna non mi attira, proprio zero. Non preferisco più una fettina qua, impanata. Ma poi butta così che è l'antuna. Dottoretta, facciamo il sacrificio un po' tutti, che il dottoretta non me lo dava, userete? Buona! La dottoretta! Ma è buona! La dottoretta, non la soletta, la dottoretta! La dottoretta, la cazzua! E la soletta della Magnitù! La dottoretta, non c'è, la fettina impanata, no? Si chiama dottoretta la milanese, è nata a Milano quella fettina impanata. Vabbè, con certo ci sono anche altri tipi di cose, però, tipo quello di che ha gli spinaci e tutte le ballacche, perché ho contato lo stesso, non sono impanate. Non riesci già mai cotolette. Come si chiamano quelle ripiene, vedi tu? Tipo cotolette? Contombre, spinacine, che si così così, ma le cotolette e carri. Sì, non bella. Tu che sei un falco, una cotoletta, l'altra è il cordon bleu, la spinacina, che si con pareggi, ma sta con bleu, la cotoletta alla milanese, bella, fritta, calda, calda, mia. Sono piccini, tutta roba che non ha niente a che fare con la cotoletta. E Manuca ti traga tutto. Il fritto mi piace troppo, ma mi manca anch'io questa cosa qua, là. Queste conoblè, che ballacche, sì. Poi vabbè, non so se li ha mai presi tua moglie, quei bastoncini, un misto, no, ci sono di questi, non so come vengono chiamati, comunque c'è un po' di tutto in mezzo, là. Sempre della famiglia Findus. La famiglia che non hai più lo stomaco, poco va di male si goce, sta roba surgelata, che attrisciava di lavarsi, no. Io mamma prende, se prende con lui li prende freschi, non li prende surgelati, capito? Perché è meglio prenderli freschi. La roba congelata, ma chissà quando vai in freezer. Non so quello che è il vero. Vabbè, prendiamo l'esempio dei calamari sui gelati, sta roba così, forse fanno male lì. Se fanno male, io non prendo quella roba sui gelati, la prendo fresca. Poi è passato a Pasqualino ieri, chiudavamo, ho preso dei polpi freschi, li sto facendo oggi e i calamari, sempre freschi. No, la roba, soprattutto il pesce in questo periodo l'ho preso fresco. Certo c'era 2 mesi e mezzo di fermo biologico e ancora c'è il fermo biologico dei pescherecci. Quindi devi arrivare un pesce dai guzzi. Certo, è usa la pesca negli guzzi. Perché non c'è fare roba, cosa stai scherzando? È tutta roba che arriva da fuori. Poi soprattutto l'orate, quelle cose sono tutte di allevamento, le orate di allevamento già sono buone perché sono controllate, mangiano sempre quella roba lì, però sono mangime, quindi come gli si riusci sani sani, no? Il mangime è la roba di pescare sempre il ragionamento all'inverso, no? Invece il pesce quando cammina nel mare mangia la roba naturale e quindi è giusto che sia più fresco degli altri. E così. No, sono andato al bar agricolo, altre pecore cosa mangiano? Marijuana. Ciao Vato, dove sono fresche le tue pecore cosa mangiano? Marijuana. Cosa mangiano? Però mi sono dei debiti, sì. Cosa mangiano, Salvatore? Dove c'era uno che aveva fatto un rutto e non si era mangiato due. Le Giovanna mangiano. sempre Ginni che per pecco salta la destra a sinistra, eh? Ci hanno la schiena come il padrone. La regia. Già va bene, già va bene. Avanti, fa che. Via, via. Se non scendi, non scendi luce, non dico. Ma stavo dicendo, qui, avrai il telefono a posto. Ci inserisco la scheda a quella di Lambrolo e inizio a occupare la barra e altro la Fruttidini. La Fruttidini vivi, lascia vivere, te l'ho già detto. Non ci fa né caldo né freddo a noi. L'educazione è chi ce l'ha, non chi la riceve, quindi noi educati ci sono sempre. La se ribassino un po' di mappicchio dal buio di un casino. Avanti, Mauro. Aspetta, sono al telefono. Proprio io, sono al telefono. Vai, vai, vai. E Alice, Alice, tante cose fritte fanno male. Tante cose fritte fanno male allo stomaco. Tu hai bisogno di culturata, no? Ma cosa ti è venuto praticamente? È una specie di... Cosa posso dire? Un momento di... non proprio di uscita, ma era la pulita. E tu vuoi frittimi? Noi... fritti sono micidiali, chiesa. Non lo guardano. E infatti... sono sconsigliati, se non voglio una voce ogni andato, va bene, padre, ma se a mangiare ripetizioni cioè ogni giorno, voi lascia aperto. Ma molto, molto male. Come molto male può alzare lo stesso. Solo già è... non tanto lo stomaco ma il fegato. Sì, perché lo stomaco lo mette da parte. E vabbè, lo so. Infatti non sa, io lo stesso lo... Infatti non ho fatto le patate fritte, ma ci mangiato magari a mezzo di frissa, a questo battato, no. Non bastano, non ho voglia, boh, non mangio niente stanotte, va, se apri le luci. Però troppo mi viene a fare. Beh. No, basta che mangi un po' di frutta, se proprio non hai voglia di mangiarti la pasta, ti mangi un po' di frutta e hai le vitamine, ce ne hai lo stesso, vedete, va che no? Sì, infatti, io c'è, sono aranci, mele, guarda ce l'abbiamo già mangiate, banane, pere, e vabbè, là. Mandarini. Vabbè, da domani adesso. Domani esco e rifornisco un po', po' di frutta. Uva, qualche pacco, quelli di seme, buona reddito. Che se mi rimane pure un chilo una busata. Infatti, la roba che dura, ha le sue vitamine, ti tiene lo stomaco leggero, non ti appesantisce per niente. E avere le vitamine che deve avere, capito? Sì, infatti. Purtroppo sì. Poi almeno sta male, ancora peggio. Alle 21 questa sera, mi Zedichi c'è, cos'è Zedichi, no? Colorado. Poi, vabbè, purtroppo Russi, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo anche. Vedi qua, prendi un esempio, la volta che mi hai chiamato, vabbè sono venuto a trovarti in quel bar, no? Che ci hanno fatto mangiare la pecora, io non avevo mai mangiato la pecora, mai, la prima volta, a cazzo che mi è piaciuto da un bel, buona ridda. Vedi, ed era una cosa così improvvisata che hanno messo lì per stuzzicare, ma se tu la mangi quando c'è uno spuntino, la pecora bollita, con le patate lesse, la cipolla, per trovare la fine del mondo. Più buono ancora è quando prendi il bavolo e fa la pasta. Capito? Fai cucinare la pasta con il pecorino sopra, con il formaggio, è una cosa allucinante. Lo so, tante cose sono buone, ma comunque poi alla fin fine sono tutte cose che fanno male, capito? Ma il piccolo mangiato non mi piace, l'ha fatta un bugio, ma buono, a me non mi piace però. Una varietà di manni, quelle che usano nei ristoranti. E c'è tanta magnetta a sinistra, lo parlo. Fatta il giorno prima dei candelieri mi sembra. O no? Non era? ricordo. Comunque una cosa l'ha fatta. E ti posso dire che siamo di riporata, era un po' salata, hanno sbagliato nel condire la pasta, cioè nell'acqua, diciamo. Gnocchi ha fatto, però a me non mi sono piaciuto, devo essere sincero. Però la pecora bollita mi piace, questo sì. Se devo essere capitare, ci partecipo pure io. Ma stai scherzando, non c'è problema. Adesso il 20. Ehi, bisogna sentire un Gigino questa settimana perché rientra Antonello. Il 22 mi pare che sia di venerdì, non lo so. Di venerdì. E quindi mi pare che ci sia qualcosa, stavamo organizzando, adesso bisogna vedere. Ok, poi c'è anche la cena con la squadra, perché a fine mese inizia il campionato e quindi l'ultima amichevole l'abbiamo fatta ieri e abbiamo vinto di nuovo 4-1. Fagione squadra della Serie H, forse ridere. E perciò, già, se c'è qualcosa già ti avviso. Non c'è problema, martedì quando andavo al barbiere, adesso faccio la gonetta da Rino. Grazie al barbiere che è sempre chiuso lunedì, porca miseria, io sono libero sempre lunedì, che riposo, i turni miei sono così. Riposo sempre il lunedì, e lunedì è chiuso, il martedì sto lavorando, bisogna andarci la sera. Vabbè, devo andare però. E c'ho la testa che non vuole vista. Io vado a mangiare un boccone e poi ci risentiamo. Per il momento vi saluto a tutti. Sono Paolo Baranicola, Paolo, Mauro, Luca, Antonio, eventuali. Paolo, che il microfono fa girare, io mi assento la mezz'oretta e poi ci risentiamo. KK, ciao a tutti. Cambio, fammi sentire un po' sabato. A dopo e buona carica. telefonini. Ma sono 11:00, ti chiamo. Ma sa, ti chiamo, non c'ho più soldi, punto, che sono a terra, alla lo mando. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio quando stavamo parlando assieme, ho detto deve essere che Luca mi ha mandato il messaggio. O è Antonio? Sì, forse è Antonio. Ma neanche, tu non ti chiama direttamente, non fa un altro messaggio. Già finisci, sono fatto. Come? A che ora finisci? Sarà una mezz'oretta. Ma sono dopo, eh? Sì. Come la nanna? Sì, sì, a domani. Vabbè, vai, mangi e ti riposi, no? Vabbè. Televisione. Come? Ecco, televisione. Avanti, Black. Buonasera, compagnia ruota. Luca, mio giro sono. Ciao, Giuseppe, buonasera. Ciao, Luca. Ecco, Alice ha sentito. Guarda, negativo. Stasera, sì, ma adesso no. È positivo, dai. Riprendete, dai. Scusate, se mi sono intromesso. Ciao, ciao. Nulla, ciao. Oh, yeah, yeah. Procuriamo i soldi e mi dici quando è possibile riscendere giù anche io e la andiamo a prendere. Non c'è problema, io glielo posso anche dire. Oh, così ha detto lui, ieri, che ho al tavolo. Per carità. Ma fa freddo qua, insomma, azione il box, ma insomma l'animale, ma più freddo. Mi sa che sta tenendo la riba. Altro che. Devo affamare, sta salendo. Ehi, va bene, io sono arrivato a casa di Pompogno, vediamo un po' se mi risponde, boh. Per favore, ho procurato il miele e anche quella cosa là. Se mi fa il favore, fammelo, hai capito? Sì, non c'è problema, vai tra. Posso fare questo vox? Fa. Lo fate subito. Atto! Gianluca! Come accoppi? Anche la coppia sta bene!